Le nostre previsioni si basano su un modello econometrico che tiene conto delle principali variabili che determinano la prospettiva dell'export. Quindi la domanda globale, innanzitutto, che noi pensiamo rimarrà abbastanza sostenuta nonostante il rallentamento che prevediamo dovuto ai fattori che tutti conosciamo, in particolare la crisi dei mutui americana, che pensiamo avrà un effetto anche sulla crescita dei consumi. L'altro effetto invece stimolante per il nostro export, che è positivo nella nostra previsione, è la qualità delle esportazioni italiane, cioè le imprese italiane si sono riposizionate non solo su nuovi mercati che crescono più velocemente, come ad esempio la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, ma anche su settori a valore aggiunto un pochino più alto di quello che producevamo alcuni anni fa. Cioè le imprese che sono sopravvissute al grande freddo degli anni immediatamente successivi al 2000 si sono rafforzate, sono oggi capaci di competere su questi mercati offrendo dei prodotti di qualità più elevata. Questo tra l'altro ha un ulteriore vantaggio perché ci difende dalla concorrenza cinese o comunque di altri paesi produttori low cost da una parte, perché i nostri beni sono di qualità maggiore, e dall'altra parte ci difende anche dall'effetto dell'apprezzamento del cambio dell'euro, perché se offriamo un prodotto di qualità i consumatori sono propensi ad acquistarlo anche se costa un pochino di più. Ecco, quello che è stato detto più volte è quello di fare un po' più sistema e di unire tra di loro le varie voci che si occupano di accompagnare le imprese all'estero. Io credo che su questi mercati le nostre imprese già ci sono e lavorano sia in termini di vendite all'estero che in termini di investimenti diretti, cioè di spostamento di alcuni pezzi della filiera produttiva direttamente su questi mercati. Questo è un dato molto importante perché se si spostano pezzi di produzione su questi mercati si beneficia anche appunto dei vantaggi di un ambiente che ha costi molto più ridotti. In questo contesto bisogna far sì che le motivazioni, i fattori che hanno spinto le imprese migliori ad andare su questi mercati, in parte per conto loro, senza aspettare che fossero portate per mano da nessuno, valgano per un insieme di imprese più ampio. Dai dati delle ricerche economiche si mostra ad esempio che quello che veramente è importante per la capacità e la performance di esportazione di un determinato paese è la quantità delle imprese che esportano, non il valore delle esportazioni di ogni impresa che esporta o che produce all'estero. Quindi significa che bisogna avere tante imprese che vanno sui mercati che crescono molto in modo che il nostro paese abbia una crescita maggiore.